Rumba fa soldia, giocava a canasta. C'era un baffa soldia, col cannone a San Foca. Stolen from Leuca, brought to San Foca. Mazzate on arrival, mazzate for survival. Quando questo analizza il tren, a lui fa un poco senso. Come Fred Red Rock Rasta, un baffa soldia. A questo presero a Leuca, portato a San Foca. Corcato on arrival, corcato for survival. Un baffa soldia guidava una Mazda. Un baffa soldia sulla sabbia di San Foca. Se ti chiedo una cartina, non voglio dire l'Atlante che tu stai cercando nel cruscotto. Ma dove cazzo credi che sto? Sono un baffa soldia bombato San Foca. Stolen from Leuca, brought to San Foca. Picchiato on arrival, picchiato for survival. Ieri ero un baffa soldia, osce con l'asso a San Foca. Pietro! Oi oi oi, oi oi oi oi. Oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi. Un baffa soldia viaggiando sulla sabbia dice passa ancora e tu gliela dai. Viaggiando sulla sabbia ha detto che ha un baffa soldia, ha scoperto San Foca. Un baffa soldia e mo' sta a Rashka. Rashka non arrival, Rashka for survival. Dal chiulo dell'Ucapu all'ucore du Salento. Baffa! Boi oi oi, boi oi oi oi, boi oi oi oi oi oi oi oi, boi oi oi, Lusalentum, rasca intra Lusalentum.